col senno di poi, non so se riavrei l'entusiasmo avuto per noi e non ricambiato mai. Perché in sintesi tu non sei così innocente, né trasparente come ti immaginai. Ho speso il mio tempo però, se valsa la pena io adesso non so, propendo nel dirti di no. A te che non dai, altro non dai che il profilo, e non concediti più. Dimmi in questa storia quale sarà il mio beneficio, se in ogni tua vittoria il sacrificio è singolo. Senno di poi, non so se riavrei l'entusiasmo.